Questo è un progetto non solo di mobilità nazionale, ma è un progetto di cantierizzazione, perché per un nodo così importante, poi diciamo così, i cittadini di Bologna o dell'Emilia Romagna conoscono bene, noi non ci possiamo permettere di ridurre o le due corsie in tangenziale e le tre corsie in autostrada, quindi andremo ad allargare le due corsie laterali in modo tale da mantenere per tutta la durata del cantiere sempre l'attuale portata, quindi due corsie in tangenziale e tre corsie nel sistema autostradale. Questo è fondamentale perché non ci sono cantierizzazioni alternative che potrebbero reggere un volume di traffico così importante sul sistema autostradale tangenziale. Questo è rassicurante e è per questo che noi abbiamo difeso strenuamente questa idea progettuale, perché è l'unica idea progettuale per poter intervenire sul passante. Senza allargamento io creerei una congestione che il sistema paese, il sistema regione e la città di Bologna non sarebbero in grado di reggere.